Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Venticinque anni fa sono stati pubblicati, in appendice ad una biografia di Hemingway scritta da Peter Griffin, cinque racconti inediti dello scrittore americano. Nessuno li ha mai pubblicati in italiano, ma una parziale traduzione è apparsa recentemente a margine di una tesi di laurea. Sulle pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore in edicola oggi viene pubblicato in esclusiva un estratto del racconto The Current, preceduto da un breve commento del professor Luigi Sampietro. The Current risale al 1919 ed è una storia d'amore. Un apologo a lieto fine in cui un giovane ricco e fin troppo bello, che di nome fa niente meno che Stuyvesant, come l'ultimo governatore della colonia della Nuova Olanda, oggi New York, diventa pugile, pur odiando combattere, dare prova di sapersi impegnare in qualcosa di serio. E il fatto che il cognome della futura sposa del racconto, Dorothy Headley, sia anche il nome della ragazza che Hemingway avrebbe sposato nel 1921, Headley Richardson, non sembra casuale. Il tema di The Current è il coraggio. I concittadini di Don Abbondio sanno da sempre che il coraggio uno non se lo può dare, ma è anche vero che Hemingway, un uomo d'azione che ci teneva fin troppo a farlo sapere, dedicò gran parte della propria vita proprio a professare quella virtù aristotelica, a dimostrare cioè che volendo si può voler volere. Che cosa sia il coraggio, il fegato? Hemingway lo scrisse una prima volta in una lettera a Fitzgerald del 1929 e quella sua definizione, Courage is grace under pressure, divenne di dominio pubblico come una sorta di slogan dopo che Dorothy Parker ebbe l'idea di trascriverla in un articolo che pubblicò quello stesso anno su The New Yorker. Il coraggio non consiste nel non aver paura, ma nella orgogliosa e dignitosa consapevolezza che ci sono cose più grandi e durature della paura stessa. La persona coraggiosa è quella che combatte e vince la paura di non essere all'altezza. In The Current, Hemingway è, per dirla nel gergo della box, uno scrittore lievemente soprappeso e non ancora abbastanza veloce nell'assestare i colpi. Ha già lavorato come cronista, e nell'impostazione e nei movimenti si indovina il narratore, facile da imitare e impossibile da eguagliare, che avrebbe dominato il mondo per oltre 30 anni. Quando glielo chiesero, ed era al culmine della propria carriera, Hemingway non volle che questi racconti fossero pubblicati, forse per non offrire il fianco a qualche facile detrattore, ma non sarebbe male che oggi qualche editore li proponesse al pubblico. Si vedrebbe che, anche all'esordio, il futuro campione era in grado di battere la maggior parte dei contemporanei. Ascoltiamo ora alcuni passaggi del racconto di Hemingway. Stuyvesant Bing fece un bel sorriso alla domestica che aprì la porta e, come d'abitudine quando Stuyvesant Bing faceva un bel sorriso, ricevette un sorriso di risposta. «La signorina Dorothy sarà subito da lei. Posso prendere le sue cose?» Lo fissava con uno sguardo che andava oltre l'approvazione. In genere, le donne Stuyvesant lo guardavano così. Quella sera, andando a casa di Dorothy Headley, si era fermato a una cabina telefonica e due ragazze uscite dalla cabina accanto si erano date una gomitata mentre passava. Stuyvesant Bing di questo era ignaro, ovvio. Non sapeva che in genere le donne lo fissavano e spesso facevano commenti su di lui. E stasera era particolarmente ignaro di tutto, perché stava andando a casa di Dorothy Headley per uno scopo ben preciso. Stava andando a chiedere a Dorothy di sposarlo, e non era per niente sicuro di quale sarebbe stata la risposta. Stuy aveva già chiesto ad altre ragazze di sposarlo, una volta in una canoa al lago, complice la luna, e una volta in macchina, a più di 50 miglia all'ora, con una mano sul volante. Ma se l'era sempre cavata, e suo fratello maggiore l'aveva salvato l'ultima volta. Vediamo un po'. L'ultima era ancora molto nitida. Le aveva chiesto di sposarlo sullo yacht di Harry. ma aveva la luna dalla sua parte anche lì e non c'era mai stato nessun dubbio riguardo alla risposta. Stasera era diverso. Stava per chiedere a Dorothy Adley di sposarlo e aveva la sensazione che lei lo avrebbe respinto. «Di te penso tutto il bene di questo mondo, Stai. Siamo sempre stati amici, ma tu ti sei innamorato di 20 ragazze nel frattempo. Non potresti mai essere innamorato sul serio di qualcuno. E a parte questo, sei troppo bello. Non potrei mai uscire e sentire la gente che dice «Chi è quella ragazza con i capelli rossi assieme a quell'uomo meraviglioso, fantastico?» «Sei la ragazza più incantevole del mondo», disse Stai con fervore. «Chissà quante volte l'hai detto, Stai. Sei volubile, ragazzo mio, sei incostante. Ti ho sempre amata, Do, sin da quando eravamo piccoli. Ti amo da quando eri una bambina con i capelli rossi. È stato il centro della mia vita. È stata la corrente grande e forte. È come un fiume. La corrente continua sempre a scorrere, ma il vento in superficie crea delle crestine bianche e potrebbe sembrare che il fiume scorra nella direzione opposta». Ma le crestine bianche sono solo in superficie. Sotto, la corrente scorre forte, sempre nella stessa direzione. Il mio amore per te è stata la corrente e tutte le altre ragazze sono state solo piccole onde in superficie. Capisco, ma capire non vuol dire crederci, disse Dorothy molto teneramente. E se Stai l'avesse stretta tra le sue braccia, la storia non sarebbe stata niente di che per il lettore. Ma ti darò una possibilità. Non sei mai andato fino in fondo nelle cose. Scegli una cosa e trasformala in un successo assoluto, incondizionato. Dimostra di essere un campione, non un secondo classificato. Non essere sempre solo un concorrente, Stai. E poi potrai venire a chiedermelo di nuovo. Negli affari, intendi? Disse Stai afflitto. Non per forza. Non è più difficile di tante altre cose e comunque di soldi ne hai a volontà. Non sarebbe giusto guadagnarne altri. Qualcosa di difficile, Stai, e trasformalo in un successo. Diventa un campione, ragazzo. Sarà fatto, Do, quanto è vero Iddio. Stai era in piedi e teneva la mano di Dorothy nella sua manona. Sarà fatto, Do, e poi tornerai qui, finì Dorothy al posto suo, e lui uscì dalla stanza con la mente illuminata dal suo sorriso. Arrivato nella sua stanza, chiamò Sam Horn, il suo migliore amico. Sam era uscito. Gli dica di venire non appena rientra, è molto importante. Stai riattaccò e cominciò a camminare avanti e indietro. Dopo un po' andò alla credenzina dei liquori e si versò un drink. Proprio in quel momento Sam Horn piombò dentro. «Che vuoi da me a quest'ora della notte? Sei impazzito, bingo! Bevi solo soletto, eh?» «Beh, rimediamo subito. Dov'è un altro bicchiere? Che succede? Confessa tutto a zio Sam. Qualche ragazza ha accettato di sposarti?» Avvolse il bicchiere con la mano e mise i piedi sul tavolino. Stai gli spiegò tutto. Sam si versò un altro drink e quando Stai si allungò per prendere la bottiglia, le dita di Sam si strinsero intorno a essa. «Non è per te, ragazzo mio. Questa roba fa diventare campioni solo di alza il gomito. Vediamo un po'. A tennis non ce la potresti mai fare. Una volta avresti potuto farcela a golf, ma ora non più. Di polo non se ne parla. Dimentichi una cosa, vecchio saggio», disse Stai. «No, non l'ho dimenticata. Sai cosa ha detto di te Dawson l'ultima volta che sei andato ad allenarti al club? Se il signor Bing cominciasse a fare sul serio, oggi sul ring non c'è nessuno che potrebbe reggere il confronto con lui, al limite delle 154 libbre. Lei ha detto qualcosa di difficile?» disse Stai pensieroso. «E come se è difficile, e come? È lo sport più difficile, più schifoso, il peggiore del mondo, caro Stai Bingo», replicò Sam. Stai si alzò e assunse una posizione da combattimento. «Che ne dici di Slam Bing come nome di battaglia, Samivel? Davanti a te, figliolo, hai Slam Bing, il futuro campione mondiale di pugilato dei pesi medi», disse Stai con tono solenne. I primi 8 mesi furono tremendi. Stai aveva sempre odiato l'idea di combattere, odiava l'idea di prenderle e sudava sempre freddo prima di scavalcare le corde. Surclassò nettamente i primi uomini con cui combatté negli incontri preliminari, ma odiava la cosa nell'insieme. Lo spogliatoio puzzolente, la folla, l'aria viziata delle sale piene di fumo in cui combatteva, la puzza di tutto e le facce che brillavano bianche e rosse dai posti a bordo ring che detestava. Sam Horn e il vecchio Dawson, che era stato sparring partner di Fitzsimmons, erano sempre con lui. Dawson decideva con chi si doveva scontrare, lo allenava e lo consigliava. Sam sventolava l'asciugamano per fargli entrare l'aria nei polmoni tra un round e l'altro, mentre Dawson gli passava la spugna sulla faccia e sul petto e gli strofinava le gambe, gli massaggiava le braccia e le cosce e gli dava un mare di dritte all'orecchio. Stai vinse tutti i primi combattimenti. Dopo le prime vittorie schiaccianti, ebbe il suo primo occhio nero e provò il brivido del knockout. Quella sensazione ineguagliabile che si ha quando il pugno, con un tempismo perfetto, va a segno e l'uomo che ti ha tempestato di botte scivola giù sul tappeto di tela resinata, privo di sensi. E una sera in cui, dopo 8 round di accanito combattimento, il destro di Stai si scaricò sulla mascella di un certo signore ebreo con un nome irlandese, poi si chinò, gli mise i guantoni sotto le ascelle e lo portò, privo di sensi, nel suo angolo, mentre l'auditorium affollato urlava e acclamava Slam Bing. Si rese conto di essere vicino alla vetta. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi da un racconto inedito di Ernest Hemingway, preceduto da un commento di Luigi San Pietro, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi.